Buonasera a tutti, benvenuti in Commissione Guten Abend, herzlich willkommen. Questa sera abbiamo con noi una giovane ospite che è stata premiata nel 2016 con il premio Claudio Augusto, un premio che organizziamo ormai da 14 anni per raccogliere le tesi di laurea, quindi questo materiale è considerato tecnicamente letteratura grigia perché esce dai canali commerciali tradizionali, ma è una fonte primaria di informazioni per gli studiosi, per i ricercatori e anche per il pubblico che vuole cimentarsi in una propria indagine, in una propria ricerca. Abbiamo con noi questa sera, abbiamo con piacere con noi questa sera appunto Alina Guarneri che presenterà il proprio lavoro dedicato, come potete vedere, al Monumento alla Vittoria che è qui a Bolzano, appunto ci sono le immagini che campeggiano alle loro spalle. Abbiamo con noi come moderatore, ma anche appunto relatore della tesi, ecco il professor Hans Heiss, che avete già conosciuto anche in altre occasioni presso le nostre conferenze, le nostre presentazioni, insegna all'Università di Innsbruck, ma ha anche lavorato presso l'archivio provinciale come vice direttore, quindi conosce bene la nostra situazione bolzanina dal punto di vista dei beni anche archivistici e beni culturali. Non ho niente da aggiungere se non che augurarvi una bella serata, invitarvi a vedere anche non solo la tesi di Alina, che è stata una tesi appunto premiata, ma anche la nostra bibliografia che prepariamo, e vi invitiamo poi a tornare a visitarci in biblioteca. Siamo ancora per qualche periodo in via Mendola 5. Poi, se conoscete qualcuno che sta così terminando gli studi, vi ricordiamo il premio Claudio Augusto, appunto, che è questo premio che riconosciamo ai giovani e alle giovani che così compilano una tesi di interesse locale. E poi vi inviterei anche a tornare lunedì prossimo alla nostra conferenza dedicata all'infinito. Gli ospiti saranno questa volta Mauro Nobile e il professor Filmani, un filosofo e un matematico. E martedì alla presentazione del libro 5.000 anni di placebo, di effetto placebo, col professor Dobrilla. Altro non aggiungo, vi ringrazio tantissimo dell'invito che avete accolto, perché crediamo molto anche in questo progetto della ricerca in Alto Adige, di quello di tenere sempre vivo l'interesse sul nostro territorio, su tutti gli aspetti che lo costituiscono. Grazie. Sì, buonasera anche da parte nostra, da parte di Alina Guarneri, da parte mia. E ringraziamo Valeria Trevisan e il suo collaboratore, il suo staff per aver organizzato questa presentazione stasera, diciamo che si inserisce nell'agenda molto fitta della Biblioteca Claudia Augusta, che quasi ogni settimana fa due presentazioni qua al Centro Trevi. È veramente pregevole quest'opera di mediazione, e penso che Valeria sarà anche contenta che arrivi l'estate, che abbia un po' di tregua dopo questa carrellata di presentazioni che ritengo molto riuscite. Già la seconda volta io personalmente che sono qua in questa presentazione di maggio. Abbiamo presentato, diciamo, un volume sull'Adige il 4 o 5 maggio, se non sbaglio. Stasera ci tocca la fortuna di presentare brevemente il lavoro di Alina Guarneri, che siede accanto a me. Io ho conosciuto Alina Guarneri adesso quasi 2 anni fa, e ci siamo avvicinati nel corso del suo lavoro alla tesi di laurea che lei ha svolto, che ha scritto per l'Università degli Studi di Trento, laureandosi nel dicembre del 2015 col stramassimo, direi, dei punteggi. Veramente ha fatto un ottimo risultato, e la relatrice, la professoressa Alessandra Galizzi-Kröger, ha voluto avere accanto a sé in questa occasione proprio per valorizzare il lavoro di Alina Guarneri, due correlatori uno Gustavo Corni, che conoscete forse in parte, uno storico di storia contemporanea, alla mia stessa età, e lui sa noi come lo sono io, lui è stato fortunato a finire nel mondo della ricerca, io ho fatto un percorso più travagliato, ciò nonostante abbiamo seguito il lavoro di Alina Guarneri, che è stata proprio, ha finito il suo percorso, diciamo, accademico insieme nel 2015 con questa tesi che si chiama Questo è il Temple Mozzano, l'alto adice alla luce del dibattito sul monumento alla vittoria. È un tipo, un lavoro importante che meriterebbe anche almeno in parte, se non in tutto, una pubblicazione, poiché inquadra, diciamo, questa vicenda difficile del monumento alla vittoria nel suo contesto storico, narra con precisione e puntualità, diciamo, la nascita del monumento, la sua costruzione, il suo percorso travagliato tra il 1928 fino al 1945, fino al periodo post-bellico, diciamo, inserisce, diciamo, la storia del monumento in questo contesto storico del XX secolo, del secolo degli estremi, e lo fa con molta accuratezza. È una ricostruzione che parte già conosciamo, una ricostruzione che ovviamente viene anche rappresentata ormai da 3 anni quasi nel monumento stesso, dove c'è proprio il percorso commemorativo didattico aperto nel luglio del 2014, è uno degli artefici di questo percorso, di questa, diciamo, apertura del monumento, sta tra di noi, è il direttore dell'archivio storico di Bolzano, il dottor Hannes Obermeier, che salutiamo con molto piacere. Dunque, il lavoro di Adina si inserisce proprio, ovviamente, in uno sguardo storico sulle vicende del monumento e poi segue con molta attenzione, diciamo, il dibattito che c'è stato nel dopoguerra, soprattutto dagli anni 70 e poi fino ai giorni nostri. Praticamente è una prima anatomia, diciamo, anche dell'effetto che il monumento ha avuto sulla, diciamo, dal 2014 in poi, sull'immagine pubblica del monumento, sul dibattito pubblico che c'è stato. Insomma, è una un'ottima, direi anche vivisezione, che Adina ha effettuato in questo suo lavoro. Adina Guarnieri è stata per parecchi mesi anche, ha diciamo, seguito anche da vicino l'apertura del monumento e ha potuto guidare classi, ha potuto accompagnare alunni nel percorso del monumento e raccogliendo così testimonianze, voci, commenti, è proprio entrata, diciamo, nel campo, diciamo, vivo del documento stesso e della sua prassi sociale. Insomma, è questo un pregio di questo lavoro, che inserisce, diciamo, inquadra, diciamo, il contesto storico, inserisce, diciamo, anche ovviamente la parte iconografica, monumentalistica, poiché il lavoro di Adina nasce da un corso di laurea in conservazione e gestione dei beni culturali. Insomma, non è soltanto la formazione storica che l'aiuta, ma soprattutto anche questa specifica competenza in materia di conservazione e gestione dei beni culturali, e oltre a queste competenze lei è un'attenta osservatrice anche dello sguardo mutato che il monumento, che si è rivolto sul monumento dagli anni dopo il 2000 in poi, quando sembrava che non ci fosse uno sbocco per il monumento, per il suo utilizzo anche sotto un utilizzo, diciamo, in veste anche storicistica, ma che ci fosse soltanto un blocco sul monumento. Invece dal 2014 in poi e soprattutto negli anni seguenti, diciamo, il museo si è sempre, il monumento si è sempre più rivelato, diciamo, una fonte di riflessione, di apertura, ovviamente anche di polemiche, ma soprattutto è diventato un monumento vivo che è entrato anche, diciamo, nel dibattito di Bolzanini e molto oltre Bolzano. Pertanto è un lavoro pregevole che Adina ha effettuato e che viene rappresentato adesso, diciamo, nelle sue varie dimensioni. Penso che la sua presentazione sia molto utile a ripercorrere i passaggi storici per arrivare ai nostri giorni, e dopo avremo modo di commentare brevemente e discutere anche questo suo lavoro e i risultati e anche l'effetto che il monumento tuttora esprime. Grazie, intanto diamo la parola a Adina Guarnieri. Buonasera anche da parte mia, sono contenta di vedere tante persone, magari tante persone che conosco ma anche molto sconosciuti. È bello perché vedo che l'argomento interessa e che c'è anche la volontà di scoprire qualcosa su questo, diciamo, personaggio, si potrebbe quasi definire celebre, di Bolzano, con questa immensa macchina propagandistica bianca che si erige ormai da decenni e di cui si è parlato molto, anche sempre in chiave un po' polemizzante, però per fortuna queste polemiche sono un po', diciamo, state raffreddate da questa storicizzazione, che è stato un atto veramente simbolico per questa regione, perché si sa che quando trovate a parlare di movimenti, parlare di fascismo e di convivenza non è sempre stato così facile come oggi. Grazie anche per questa introduzione molto lusinghiera e grazie per la tua presenza questa sera, perché insomma sicuramente con questo calendario così fitto non è sempre facile trovare il tempo per queste presentazioni. Come è stato detto, mi sono laureata nel 2015, corso di laurea era conservazione e gestione dei beni culturali. Per questo la mia tesi non era improntata solamente sugli aspetti storici, le cose che sono successe in attuale sul fascismo, sul post-guerra, post-1945, ma si trattava soprattutto di capire come possiamo leggere una società attraverso il suo comportamento nei confronti delle tracce del passato. E sono così partita un po' da quest'idea che il monumento è spesso stato letto in relazione al passato fascista dell'Alto Adige, però a un certo punto mi sono anche chiesta: ma insomma, il monumento esiste ancora oggi? Io lo vedo oggi e ha anche una vita post-fascismo questo monumento, e vediamo un po' cosa potrebbe raccontarci su ciò che è successo dopo, perché non è sicuramente un'entità autodeferenziale. È stato creato da esseri umani, in quanto tale, in quanto creazione, rispecchia, c'è stata un'intenzione iniziale dietro la costruzione di questo monumento, che però non è fissa. Noi non siamo costretti a vedere le stesse cose che, per esempio, voleva che Piacentini, per esempio Piacentini voleva che vedessimo, perché siamo comunque delle persone libere, siamo delle persone che vivono nel 2017 e non nel 1928. E tutta questa mia riflessione è partita da una domanda, perché quando lavoravo al centro di documentazione, facevo le guide soprattutto per le scuole, alla fine di ogni guida facevo vedere il video che ha mostrato nell'ultima sala, che chi è stato a visitare il centro di documentazione probabilmente conosce, che questa sequenza di servizi del telegiornale regionale o anche di interviste a dei semplici passanti, dove questi potevano esprimere la loro opinione sul momento. E a un certo punto una ragazza, aveva avuto, penso, 16-17 anni, di madrelingua tedesca, mi ha chiesto alla fine della guida: ma insomma, questo monumento ha continuato a fomentare il conflitto etnico in Alto Adige, ma come mai lo Stato italiano non ha detto: ma potremmo anche forse togliere la scritta, potremmo anche demolirlo, se fosse così si sarebbe riusciti a semplificare questo processo comunque un po' difficile della creazione di una convivenza pacifica. E io non sapevo cosa rispondere, perché fino a quel momento non avevo mai veramente pensato che fosse possibile scollegare, diciamo, scardinare il monumento da il suo solo passato fascista. E dopo ho iniziato a leggere, volevo sapere qualcosa, perché non mi piace fare figure di questo genere, quando mi trovo davanti a qualcuno devo dire non lo so, quando questa persona pensa che io dovessi saperlo. Ho iniziato a leggere dei testi e ho visto che poco è stato scritto su questo argomento. Si parla prevalentemente di fascismo, il monumento è prevalentemente interpretato, diciamo, in chiave imperialistica, come simbolo di nazionalizzazione, di oppressione della popolazione locale, però ciò che potrebbe dirci a noi oggi, ciò che è successo dopo, poco si è scritto. E ho iniziato la mia ricerca, che mi ha portato a comprendere delle cose anche sul nostro modo di vivere oggi, sul mio modo di relazionarmi con le persone attorno a me, che non avevo mai osato immaginare di scoprire attraverso queste semplici ricerche. E questo perché? Perché ho compreso che un monumento in sé non è mai solo quello che appare. La parola tedesca, che ho scelto anche per il titolo, Denkmal, lo spiega molto bene, perché Denken, pensare, il pensiero, mal, la macchia, il segno. E questo, il monumento non è solamente un mucchio di sassi, ma è un segno di un pensiero umano. E in questo senso possiamo anche parlare di Denkräume, cioè degli spazi fisici che però sono in grado di collegare pensieri che noi non vediamo materialmente, ma che percepiamo. E per questo il monumento collega, a mio avviso, il passato col presente e ci svela molto anche sulle persone che dopo hanno deciso di conservarlo, come è stato conservato, chi invece era contrario alla sua conservazione e come lo vediamo noi adesso. Sono tutte dei livelli interpretativi che possono essere letti separatamente, ma la migliore cosa da fare sarebbe leggerli tutti insieme, perché così si capisce veramente quanto è fitta, quanto è densa la biografia di questo monumento. Però iniziamo dal passato. Le immagini purtroppo sono un po' allargate in questa presentazione, perché dobbiamo, per comprendere il valore che il monumento ha per noi oggi, comunque tornare indietro. E significa tornare indietro più o meno alla fine della prima guerra mondiale, quando il Sudtirolo è stato annesso al Regno d'Italia. E una persona molto importante allora per l'attuale era comunque Ettore Tolomei, convintissimo della necessità di annettere anche l'attuale al Regno d'Italia, persona che a volte penso non dormiva di notte per immaginare come potrebbe fare per italianizzare questa regione. Ha addirittura pubblicato questa cartina, a sinistra si vede, nel 1915, praticamente durante la guerra, dove ha cercato di spiegare, così in modo veramente visivo, come mai l'Italia avesse, cosa ne so, il sacrosanto diritto di impossessarsi di questa regione di confine. E l'ha fatto in questo modo. Queste aree rosse dovrebbero rappresentare la cultura italiana. Le aree più azzurrine sono la cultura tedesca. Si vede che, insomma, le aree rosse sono molto più presenti, molto più grandi, molto più potenti di quelle blu. Poi vorrei anche far notare che i ladini, comunque, a di loro sono stati dichiarati italiani, cioè praticamente per Tolomei non esistevano i ladini. Anche i tedeschi sembrano una manciata, guardando queste zone blu, che poi con una sorta di messaggio promozionale, subliminale, questa, la forma della zona blu sembra quasi un'aquila agonizzante. Per questo io immagino quanto fosse contento Tolomei nel 1918, quando il confine dell'Italia si estese fino al Brennero e gli fu dato l'incarico di provvedere, di elaborare questi suoi provvedimenti per italianizzare la popolazione dell'Alto Adige. Uno di questi provvedimenti, che era il provvedimento numero 17, prevede la rimozione dello stacco di Walter von Fulberg dalla piazza. Questo perché? Perché lui dice che Bolzano non potrà mai essere una città italiana finché c'è il poeta tedesco. E ha anche scritto svariate lettere a Mussolini, chiedendo che fosse finalmente rimosso. Mussolini a un certo punto gli risponde: il Walter resta lì dove il giorno vale la candela. Poi fu comunque rimosso nel 1935, si vede l'immagine a destra, e fu spostato non molto lontano da qui nel parco dietro il parco di Amarconi, dove rimase fino, mi sembra, agli anni 90 addirittura. Comunque per però comunque nella stessa occasione Mussolini dice: il Walter resta lì, però in un altro posto a Bolzano faremo erigere un monumento molto più grande, molto più maestoso, in onore di un grandissimo italiano. E questo grandissimo italiano per lui fu Cesare Battisti. Cesare Battisti, che allora era già una sorta di eroe nazionale, chiedentista trentino, impiccato nel 1916 al Castello del Buon Consiglio per un altro tradimento, perché come cittadino dell'impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale lui si era arruolato con gli alpini e aveva combattuto ovviamente per l'Italia, anche diciamo era stato soprannominato una sorta di apostolo dell'ultimo risorgimento, perché lui era molto a favore dell'entrata in guerra dell'Italia, ovviamente caduto nell'oblio che era sardonista, cioè lui non voleva l'annessione di tutto l'Alto Adige alla Regno d'Italia, ma lui parlava delle zone italiane effettivamente dell'impero austro-ungarico e non anche della popolazione tedesca. Comunque eroe nazionale, strumentalizzato dal fascismo come quasi tutti i caduti della prima guerra mondiale, perché dopo, quando la vedova Ernesta Abitanti Battisti si oppose a questa dedica, Mussolini decise di dedicare il monumento in generale alla prima guerra mondiale. Anche questa è una strumentalizzazione dei caduti, perché i soldati caduti nella prima guerra mondiale non erano fascisti, non esisteva neanche il concetto di fascismo, per esempio, che qualcuno che caduto nel 1915-1916. Questo ricorda molto anche questa storia dei soldati esumati sul fronte occidentale per poi essere risepolti gli ossari qui in Alto Adige. Sono persone che non erano morte qui, però che sono state portate qui. E questo è già un ulteriore strato, diciamo, semantico, un ulteriore livello interpretativo che il monumento ci permette di analizzare, perché non ci parla solamente, come abbiamo visto, della politica di snazionalizzazione dei sottivolesi, ma anche di questa propaganda abile, molto astuta, del fascismo, che ha usato i caduti e li ha praticamente dichiarati i primi martiri di questa rivoluzione fascista. E l'ha fatto con i caduti, l'ha fatto anche Cesare Battisti, che nonostante il monumento non fosse poi mai dedicato a lui, un po' di Battisti lo troviamo comunque. Vediamo qui questo busto è il ritratto di Adolfo Wild, fatto per il monumento, che è esposto nella parte superiore assieme ai busti anche di Damiano Chiesa e Fabio Filzi, comunque anche loro irredentisti, sicuramente non fascisti. E anche il giorno dell'inaugurazione e prima della posa della prima pietra cadde lo stesso giorno della morte di Battisti, cioè l'anniversario della sua morte, fu scelto per l'inaugurazione. Questo comunque lo torniamo dopo. Deciso che si doveva fare in questo monumento, si poneva un problema, e cioè di dove si voleva fare, ce n'era un altro di monumento un po' più spostato, lì dove oggi c'è il Kebab Bado, dove c'è il Ponte Tartara, lì una volta si trovava un monumento dedicato ai Kaiseri, che era Strongarici, cioè un reggimento che ha subito delle ingenti perdite in Galizia, e poi è stato deciso di dedicare un monumento per proprio Bolzano. È stato progettato da Karl Ernstberger, un architetto boemo, che ha iniziato nel 1916 a progettare questo monumento. Nel 1916 siamo in piena guerra, non è mai riuscito a terminarlo. Vediamo in alto la foto come si presentava e in basso il modellino in scala. Vediamo che manca tutto il portico, poi voleva ancora metterci un'aquila di bronzo, doveva esserci anche un cenotafio, numerose scritte rilievi, insomma non è mai stato terminato. Cosa si è fatto? È stato fatto esplodere. E le pietre sono state riciclate, si trovano oggi sotto il monumento alla vittoria, praticamente sono state usate per costruire le fondamenta. Più simbolico di così, usiamo le pietre di un monumento dedicato ai caduti di un altro paese e mettiamo in cantina e sopra ci leggiamo il nostro monumento bello, bianco, candido, fatto di marmo italiano. Sicuramente è una cosa che è rimasta impressa nella memoria collettiva sul tirolese come un affronto, perché anche oggi si vede che distruggere i monumenti di un'altra cultura equivale in un certo senso anche a una sorta di omicidio culturale, una cosa comunque molto sentita. Ciò significa anche che il monumento alla vittoria, io ero sin da sempre molto contraria alla sua demolizione, perché secondo me i monumenti non si demoliscono mai, perché ci raccontano molto, sono molto utili per capire e comprendere anche i meccanismi che stanno dietro certe decisioni della politica. L'incarico per la costruzione del monumento è stato assegnato a Marcello Piacentini, che era il Frank Lloyd Wright del ventennio, architetto molto caro a Mussolini, ha progettato moltissimi edifici anche a Roma, anche a Brescia. Brescia ha distrutto anche una parte del centro storico per costruire anche una piazza alla Vittoria. In alto vediamo una sorta di, diciamo, leggenda, che non è attestata che questo schizzo sia effettivamente stato fatto da Mussolini. Forse era anche una sorta di decisione propagandistica, perché comunque la propaganda del tempo voleva far credere che Mussolini fosse capace di fare tutto, per questo anche progettare monumenti ovviamente. Questo schizzo non è firmato, però potrebbe essere Mussolini. Assomiglia molto però al monumento come lo vediamo oggi. Lo stesso Piacentini non era molto sicuro quale forma dare a questo monumento. All'inizio pensava ancora a una sorta di tempio circolare, come per esempio lo vediamo a Trento, sul cosiddetto TOS Trento, che è anche quello un monumento dedicato a Cesare Battisti. Poi alla scelse questa forma architettonica più tradizionale, proprio dell'arco di trionfo, una ripresa di elementi romani, tipica per il fascismo, con però degli elementi anche razionali, perché vediamo che è comunque squadrato, molto geometrico, e le colonne sono a forma di enormi fasci vittori. Con questo Piacentini ha inaugurato un cosiddetto stile vittorio, però il monumento di Bolzano è finora l'unico esempio di questo stile, cioè non è stato mai usato per un altro edificio. Le nicchie che vediamo in fondo, qui in parte si vedono, Spesso si è stata chiesta se una volta c'era qualcosa in queste nicchie, una struttura, qualcosa. Sono sempre state vuote queste nicchie. Sin dall'inizio che Centini pensava di lasciarle vuote, e questo potrebbe in parte rispecchiare questa idea dell'omologazione dei caduti. E come anche il Grande Ossario, vedi Puglia per esempio, vediamo spesso questo susseguirsi di nicchie vuote, perché è veramente questa idea dell'omologazione di tutti i soldati, di tutti i caduti per la stessa causa. Molti caduti non hanno neanche il nome, non sono stati identificati. E soprattutto anche pensare che per le dittature, per un regime come quello fascista, l'individualità non esisteva. Una cosa trasmessa anche qui attraverso l'architettura, attraverso le sue foto. E questa è l'immagine della piazza come si presentava negli anni 30, dove vediamo l'odierno Corso Libertà, allora Corso Don Maggio, come una sorta di Route 66, quasi in mezzo al nulla. Qui Piazza Mazzini ancora non esisteva, in fondo vediamo l'abbazia di Muribies, anche Piazza 4 Novembre, manca ancora tutta la parte qui di Palazzina, e questo dimostra anche un'altra peculiarità, che prima della posizione del monumento qui non c'era nulla, c'erano dei prati, c'erano dei giardini, però non era un quartiere così densamente popolato come lo è oggi. Tutto questo è stato costruito su volere del fascismo per dare alloggio a tutte le persone che proprio in quegli anni sono giunte a Bolzano. Seguita anche questa politica demografica del fascismo, perché la costruzione, per esempio, anche della zona industriale ha portato a Bolzano molte famiglie operaie che, per esempio, non trovavano lavoro nelle regioni più a sud, oppure anche tutti i dipendenti statali del fascismo che, per tutta la loro burocrazia, gli uffici, dovettero venire a Bolzano. Ciò significa che molte famiglie italiane che vivono oggi qui collegano i loro i primi passi come nuovi bolzanini, nuovi altoatesini, a questo periodo storico. Per loro questi quartieri sono i quartieri della loro infanzia, sono i quartieri dell'infanzia dei nonni o dei padri. Hanno sentito queste storie, come si viveva allora nelle semi rurali. Ciò significa che molti non vedono anche nel monumento o in altri eventi del fascismo, come per esempio in Piazza Tribunale, un qualcosa di negativo o puramente negativo, come per esempio lo potete vedere una sottovoletta di madrelingua tedesca, perché fa parte della loro vita, della loro esistenza, della loro biografia. Cosa succede durante la Seconda Guerra Mondiale? Arrivano gli occupanti tedeschi 8 settembre 1943, e questo senso di liberazione degli italiani si tramuta anche spesso in atti di violenza nei confronti di ciò che li ricordava il fascismo. Ora, non si sa esattamente se gli atti di vandalismo che sono accaduti in quel periodo siano adesso successi all'opera dei soldati o all'opera della popolazione locale. Il fatto sta che subito dopo l'occupazione da parte dei tedeschi, qualcuno ha diretto l'erba di Cesare Battisti, che abbiamo visto precedentemente, è stata messa una fune attorno alla testa e poi attaccata una camionetta militare, è stata trascinata per tutto il centro storico di Bolzano. Sfreggiata e in parte distrutta, è rimasta appoggiata davanti al monumento, e Ernesta Vitanti Battisti racconta che in questo periodo molti italiani si sono recati al monumento per deporre dei fiori. Ora, è quasi impossibile scoprire se questo aneddoto sia vero o meno, però è molto plausibile, a mio parere, che sicuramente in un periodo difficile per l'occupazione di madrelingua italiana, come lo è stata l'occupazione nazista, forse in un momento aveva una sorta di funzione anche di consolato, forse in un certo senso. Si ritrovavano lì e hanno vissuto la distruzione dell'era di Gesù Battisti come anche un affronto nei loro confronti, nella loro identità di essere italiani. Comunque vediamo che i monumenti sono anche una... si prestano ad essere una, come una sorta di tela bianca dove noi possiamo proiettare le nostre angosce, possiamo proiettare anche le parti delle nostre soddisfazioni, diventano come una sorta di testimonianza materiale delle nostre emozioni, di come noi ci sentiamo. E sono molto ricettivi perché alla fine non possono farci nulla i monumenti in sé. Il monumento si presentava molto anche in parte distrutto, in parte saccheggiato, le truppe tedesche, le vie sotterranee della cripta durante la guerra le avevano usate come magazzino per armi, rifiuti, tutto quello che capitava, e di conseguenza lo Stato italiano dopo la guerra decise di restaurarlo. E i fondi per questo restauro, ingenti fondi, provennero dal fondo per propaganda di italianità. Adesso questo sembra una... suona strano, insomma, sentirlo così oggi, che dopo la guerra, dopo la caduta del fascismo, ci sia ancora qualcosa come propaganda di italianità. Il monumento restaurato fu inaugurato il 4 novembre del 1949, una data simbolica sia per gli italiani che anche per i tedeschi, perché insomma il 4 novembre, alla fine della prima guerra mondiale, per i sudtirolesi di madrelingua tedesca, segna una data storica, perché significa perdere la vecchia madre patria, Austria, e diventare italiani. Questa cosa fu vissuta come un vero e proprio affronto, soprattutto perché molti altoatesini tedeschi, dopo la fine della guerra, avevano sperato di ritornare all'Austria. Delle speranze che non si sono mai avverate, anche perché in un contesto politico globale, con la Russia e l'America all'inizio della guerra fredda, si decise di mantenere il confine del Brennero, però fu sottoscritto, tutti lo conosciamo, il cosiddetto accordo De Gasperi-Gruber, o Gruber De Gasperi, in museo, al gruppo linguistico cambia leggermente il nome di questo accordo, che assicurava agli altoatesini di madrelingua tedesca stessi diritti, scuole nella loro lingua, la possibilità di accedere agli archivi pubblici e così via. Tutte cose che furono messe in atto lentamente per svariati motivi. Sul lato si deve dire che il sistema anche educazionale del fascismo aveva penalizzato molto il gruppo linguistico tedesco, perché molti bambini cresciuti in questo periodo avevano difficoltà con entrambe le lingue, molti non hanno avuto la possibilità di studiare, di frequentare forse anche l'università, e non avevano la preparazione sufficiente per accedere, per esempio, al mestiere di professore alle superiori. Per questo molte cose rimasero pressoché sulla carta di questi diritti. A ciò si aggiunge un fenomeno che era la migrazione di molte famiglie operaie che dalle regioni più povere del sud migravano verso nord. Questo è un fenomeno nazionale che non riguardò solamente l'Alto Adige, però ovviamente qui fu sentito in modo particolare, perché a molti sembrò di ritornare indietro di alcuni anni, sembrò come se fossero cambiati i musicanti, ma non la musica, perché continuavano ad arrivare molte famiglie operaie italiane. L'edilizia popolare, che in della provincia di Bolzano con lo statuto d'autonomia del 48, fu comunque portata avanti dallo Stato. Insomma, c'erano delle tensioni molto sentite. Poi in mezzo ci fu anche la famosa marcia della morte del canonico Michael Garbe, e qui vediamo Silvio Smediano a Castelfirmiano il 17 novembre 1957. Ci furono molte insoddisfazioni allora, e queste insoddisfazioni trovarono diversi modi per manifestarsi. Uno, vediamo qui l'immagine di questo traliccio, che è uno dei tralicci colpiti durante la notte dei fuochi, che era solamente l'inizio di una lunga serie di attentati che partivano con i tralicci per passare poi anche a, per esempio, la casa di Tolomei Arleno o ad altri monumenti come il Duce a Ponte Gardena. E queste soddisfazioni ovviamente furono proiettate anche sul Monumento alla Vittoria, che indubbiamente in quegli anni diventò uno strumento politico, perché questo insistere da parte dello Stato italiano a mantenerlo, a restaurarlo con dei finanziamenti anche molto cospicui, sembra quasi come se lo Stato avesse voluto essere esageratamente autoritario nei confronti di una provincia che iniziava a diventare scomoda, una regione scomoda, perché insomma anche con la risoluzione dell'ONU la cosa è stata internazionalizzata e era problematica questa cosa. Insomma, sembrava quasi che si volesse tenere man forte nei confronti degli altri altresini. Quasi esageratamente. E il problema non riguardò solamente il Monumento alla Vittoria, ma anche altri monumenti fascisti, altri veriti fascisti, anche se il Monumento alla Vittoria resta comunque il verito fascista per antonomasia nella visione della maggior parte dei sudolesi di lingua tedesca. Vediamo qui altre opere contestate, come per esempio il dettaglio qui del rilievo di Hans Biefrader in piazza Tribunale, che è stato anche questo molto contestato, molto discusso negli ultimi anni, molto difeso anche negli ultimi anni, si deve dire, e al momento si trova impacchettato. Sono passato l'altro giorno, visto che è ancora impacchettato, perché c'è adesso un momento in atto questo intervento che mira a storicizzarlo con la citazione di Hannah Arendt che vediamo anche nella cripta del monumento. Infatti così non lo vedremo più. Però anche le acque di Ponte d'Uso furono contestate. Addirittura la sovrintendenza dei beni architettonici di Trento, subito dopo la guerra, aveva lanciato un progetto, si pensava di togliere queste aquile, ma anche non solamente le aquile, anche i fasci vettori, perché vediamo che questi sono bloccati su degli enormi fasci vettori. Alla fine ci furono numerose proteste, nessuno seppe come riprogettare il ponte dopo la rimozione di queste aquile. Poi le proteste, insomma, anche da parte di Tolomei e da parte del Movimento Sociale Italiano portavano a queste circostanze che le aquile furono rimosse negli anni 70. E due di queste aquile oggi sono esposte al Monumento alla Vittoria, però nel 1994. Le altre due, è stato detto, si trovano alla giardineria comunale, dove curiosamente si trova anche il centro di recupero avifauna selvatica. Non so se poi andiamo a far lì a vedere i gufi salvati che stanno sulle acque, che sarebbe molto interessante. Un intervento quasi pop, fare una cosa del genere. Abbiamo un argomento molto complesso, cercherò di essere concisa. Il dibattito sul monumento nel secondo dopoguerra è sintomatico per una peculiarità di questa regione e che comunemente viene definita la memoria non ho mai diviso perché abbiamo diversi gruppi linguistici che ovviamente hanno un diverso background culturale. Abbiamo un gruppo linguistico tedesco che vive in questa regione da parecchi anni, ha per questo anche è radicato qui, si definisce gruppo sudtirolese, ha un'identità collettiva da sudtirolesi. Anche se si deve dire che Klaus Gartel ha riconosciuto che prima dell'annessione dell'Alto Adige al Regno d'Italia il Sudtirolo come tale, come lo intendiamo noi oggi, non esisteva neanche, perché il Sudtirolo era il Vestirolo, allora diciamo la parte italiana del Tirolo. Però sicuramente anche il periodo del fascismo ha enfatizzato maggiormente questa forte coesione che già c'era qui tra la popolazione, soprattutto la popolazione rurale. Il gruppo linguistico italiano è arrivato recentemente in regione, è arrivato da province diverse, può essere arrivata la famiglia calabrese, è arrivata la famiglia abruzzese, quella pugliese, erano persone che parlavano dialetti diversi, venivano da realtà diverse, che non avevano una base comune. Per questo è stato anche difficile creare una sorta di identità collettiva italiana altoatesina, una cosa che adesso lentamente si sta creando, che però ha avuto il proprio catalizzatore soprattutto durante l'occupazione nazista, quando c'è stato il bisogno di trovarsi, di riunirsi, perché improvvisamente c'erano gli altri. E in questo senso anche la visione che questi gruppi linguistici hanno del proprio passato, del proprio ruolo all'interno della provincia, cambia, sono anche spesso antitetiche queste visioni, soprattutto quando si tratta di parlare di questo periodo molto difficile. Perché ovviamente il gruppo linguistico tedesco si ricorda le anghiere subite dal fascismo, mentre il gruppo linguistico italiano si ricorda le anghiere subite dal nazismo, insomma Pampa e Focaccia. Entrambi hanno dovuto subire un regime totalitario che proveniva dal gruppo linguistico opposto. E questo ha portato a delle visioni un po' edulcorate della propria partecipazione alle cose che sono successe. Significa che spesso, penso che usare una parola forte, però la metto fra virgolette, i sudtirolesi si considerano come vittime del fascismo. Tutta parola però, insomma, per spiegarmi meglio. Mentre il gruppo linguistico italiano, soprattutto dopo l'approvazione del secondo statuto d'autonomia, si è sentito vittima dei tedeschi, perché c'è stata improvvisamente la proporzionale etnica, il patentino, c'era cioè l'obbligo di bilinguismo, e ha visto svanire molti dei privilegi che una volta invece erano usuali. E abbiamo due memorie che si scontrano, e due memorie che però entrambe si materializzano in un momento della vittoria. Lo vediamo nuovamente anche la conferma del fatto che i monumenti possono essere portatori di significati diversi, spesso anche contrastanti. E questo si manifestava molto evidentemente, soprattutto in occasione delle feste per il 4 novembre. Qui vediamo la prima immagine, non è una datata questa immagine, poi sicuramente precedente al 61. Grazie. Sicuramente precedente, infatti volevo dire al 79, perché ancora non c'era recinto. E le altre immagini dimostrano invece una parata degli Schützen, che è avvenuta il 24 aprile del 96. Cosa hanno a che fare queste tre immagini? Cerimonie del 4 novembre sono sempre state molto, molto contestate dalla popolazione, soprattutto in lingua tedesca, perché il momento era ritenuto un luogo poco adatto per commemorare una guerra, una vittoria che comunque ha portato alla missione del Sud Tirolo e dell'Italia. Viceversa, anche molti interpretano, soprattutto del gruppo linguistico italiano, il monumento comunque anche come un monumento ai caduti, cioè dedicato ai propri parenti morti durante la guerra. E vediamo che c'è proprio un grande missing link fra queste due interpretazioni, e ci sono sempre state molte anche fiaccolate prima del 4 novembre. Addirittura lo storico John Foote chiama il 4 novembre un momento di scontro ritualizzato, perché periodicamente ogni anno la gente si scontrava. E nel 1996 gli Schützen decisero di protestare davanti al monumento, in ricordo di Franz Hinterhofer, ucciso dagli squadristi, e con dei finti cartelli stradali hanno cambiato il nome della piazza e l'hanno intitolata a lui, a Franz Hinterhofer. Gli animi veramente surriscaldati hanno portato a una serie di scontri nei mesi successivi, così che il giorno del 4 novembre del 96 ci furono 400 poliziotti in piazza per sorvegliare la deposizione di tre colonne d'alloro, che durò due minuti, e dopo il comune ha compreso che forse non era più il caso di spendere anche c'è una necessità di talmente tante persone per sorvegliare questa cosa, forse era più adatto spostare queste cerimonie all'interno del comune, dove adesso vengono ancora svolte. In questo clima di tensioni, cosa succede? Esplode la bomba nel momento. Siamo nella notte del 1 ottobre del 78 e si legge qui: ordigno 3 kg di dinamite alle 3 di notte, e questo ordigno era stato depositato sotto l'erma di Damiano Chiesa. Finora non si sa chi fosse l'artefice di questo attentato, perché dopo sono state tre rivendicazioni, però insomma la polizia non è mai riuscita a capire chi effettivamente aveva fatto esplodere questa bomba. Non è stato ferito nessuno, fortunatamente, tranne l'erma di Damiano Chiesa, che è stata poi restaurata, la vediamo qui in una vecchia immagine d'archivio, e la vediamo come si presenta oggi. E involontariamente il restauro ha anche rimosso un falso storico, perché Damiano Chiesa non è mai stato indicato, è stato fucilato, però Adolfo Vivi comunque per completare il trio degli evidentisti impiccati ha deciso di mettere questo grande tappio attorno al collo. Il restauro del monumento, annunciato dopo questo attentato, ha provocato delle reazioni particolari. L'Estop protestò veementemente contro il restauro e Franz Pfaal decise di digiunare davanti al monumento per protestare contro questo intervento. Era il 3 marzo del 1979. Lui si avvia verso il monumento con una bandiera tirolese, con dei cartelli in diverse lingue, si siede su una cassetta di mille e inizia a digiunare. Ovviamente alcuni neofascisti si recano sul posto e iniziano a intimidirlo. Per difenderlo arrivano anche degli Schützen. E per evitare che la situazione degenerasse, la polizia decide di mandare a casa tutti i protagonisti, anche in palla, insomma, tutta questa azione durò neanche 24 ore. È abbastanza curioso, adesso forse non mi può sembrare un po' divertente questa cosa, però quello che ci interessa di più è la reazione dei media, perché Dolomite, cioè la stampa tedesca, scrisse che Pfaal era stato minacciato di morte, era stato picchiato, che c'era stata anche addirittura della violenza fisica nei suoi confronti, mentre la Tuadige scrisse che per fortuna da parte italiana si erano mantenuti i nervi saldi e così si è riuscito ad evitare il peggio. L'Adige scrisse addirittura che Pfaal era un grande intascabile. In mezzo a tutto tutto questo, penso che l'intervento più, più sensato fosse quello di Paolo Bariago, che sulla pagina scrisse che Paul in questa situazione era semplicemente la persona sbagliata per la giusta causa. Che significa che la cosa più dolorevole non era il fatto che qualcuno chiedesse la rimozione di un tale evento, ma il fatto che uno la usasse in chiave politica per fomentare il conflitto etnico. Perché non era una questione di principio, non si trattava di un atto di storicizzazione o fosse un atto simbolico che mirava al miglioramento della convivenza, ma era comunque sempre uno strumento politico. Poi cosa succede? Il monumento fu restaurato nel 79, circondato dal recinto, era severamente vietato metterci in piede per tutti gli anni 80 e anche per tutti gli anni 90, una cosa quasi controproduttiva, perché qualcosa che è così, diciamo, rinchiuso riceve un'aura quasi erratica, un'aura quasi di sacralità, che sicuramente non era delle intenzioni di chi ha deciso di mettere questo recinto. Poi nel 2009 parte il quarto restauro. Però questa volta nessuno sciopera e nessuno fa esplodere di nulla. Finalmente si parla di storicizzazione, cioè questo evento viene colto come occasione per riesumare dagli archivi un vecchio progetto del 91, dove già si era auspicata la realizzazione di un percorso espositivo sulla storia dell'Alto Adige. Vediamo come si presentava prima del restauro. Numerose infiltrazioni d'acqua, gli ambienti sicuramente molto umidi, avevano danneggiato le pareti, c'era la muffa, c'erano gli affreschi di Guido Cadorin nella cripta che stavano perdendo pezzi. Si è deciso di intervenire e prima di tutto c'era la necessità di avere il permesso di fare qualcosa, perché il monumento, nonostante comunque, insomma, dipende dai punti di vista, è tutelato come bene culturale, come opera artistica, dalla legge nazionale e anche regionale. Per questo uno non poteva andare semplicemente lì e fare un percorso. Doveva esserci il permesso da Roma. Questo permesso fu dato da Sandro Bondi e lui scrive, non permetteva con questo testo, con questo documento, solamente un intervento al Monumento della Vittoria, ma anche un intervento, per esempio, al medievo in piazza Tribunale. Fu istituita una commissione nel 2009, una commissione che è istituita nel 2011, uno dei membri è anche tra di noi questa sera, che elaborò un indice tematico per questo percorso espositivo. L'indice tematico era molto più fitto di quello che fu realizzato poi alla fine, perché insomma è successo talmente tanto anche in questo periodo storico, parliamo comunque del 1918 al 1945, che i visitatori sarebbero usciti operati da questa, da tutte queste informazioni, perché si tratta comunque di 700 metri quadri di sale. Vediamo il restauro. Qui vediamo le sale interne. Prima di questo intervento del 2011 non c'era nulla di sotto, c'era un corridoio per controllare i fondamenti del monumento. Questo corridoio è stato ampliato, sono state create queste arcate che hanno quasi un aspetto simile ai pontici di Bolzano. E qui vediamo come si snoda il percorso. C'è il percorso interno, quello che corre lungo le fondamenta, che racconta la storia del monumento. E vediamo i materiali utilizzati sono scuri, sono pesanti. Vogliono anche trasmettere, in un certo senso, il peso di questa opera, il peso anche del materiale, della pietra. Il tutto allestito secondo un busto settecentesco, si chiama incrosta presentazione, cioè pochi spazi tra gli oggetti, tra le immagini, e questa scelta di avere delle cornici concave e convesse in un certo senso va contro questa rigida geometria del momento, perché è irregolare, non è più così geometrica. Il percorso esterno, molto più leggero perché realizzato con delle grandi lastre di vetro, narra invece la storia dell'Alto Adige fra le due guerre, fino ancora, diciamo, 1945 e un attimino oltre, visto che l'ultima sala contiene anche un cartello stradale, che è il cartello stradale di Piazza della Pace del 2002. Anche l'utilizzo di materiali così moderni come il vetro, l'acciaio, l'acciaio Corten, dovrebbe anche contrapporsi ai materiali utilizzati per il momento. C'è un elemento nuovo, moderno all'interno di questo edificio, comunque di quasi 100 anni fa. Il percorso è stato inaugurato nel luglio del 2014, alla presenza anche di Italo Franceschini, e leggendo anche commenti, vedendo degli ospiti, ma soprattutto anche ascoltando le reazioni dei gruppi che ho portato io al monumento, erano tutti entusiasti, tutti lodavano la rappresentazione dei contenuti, la scelta degli argomenti, il modo ponderato, il modo oggettivo con cui questi sono presentati. L'unica cosa, l'unico neo, era questo anello, che probabilmente nessuno se l'aspettava, però è veramente stato molto contestato perché ritenuto in parte uno scempio, un qualcosa che rovinava l'aspetto del monumento. Alla fine io però lo ritengo un'idea particolare. Qualcuno nel libro degli ospiti ha scritto come baffi da via la Gioconda, perché è qualcosa che comunque dimostra che non è più la stessa cosa di una volta, qualcosa è cambiato, però è sottile, non si nota subito, perché il momento esternamente non è cambiato, è sotto che c'è il cambiamento, però qualcosa sopra doveva comunque esserci, anche per attirare l'attenzione. E allora Michele ha detto che questo è l'anello al naso con cui il monumento è stato tirato fuori da questo passato un po' buio, è un elemento veramente particolare, anche se, come ho già detto, ha suscitato moltissime polemiche. Qualcuno addirittura ha mandato una foto a Vittorio Sgarbi di questo, lo chiamo qua, questo edificio luminoso, per avere un parere, e poi Vittorio Sgarbi si è detto anche lui entusiasta, ha detto molto pop, mi piace questo intervento. Poi alla fine, come quasi tutte le critiche, anche questa si è insabbiata, perché tuttora il monumento è accolto dalla popolazione con grande entusiasmo, c'è veramente la volontà di andarci, di sapere qualcosa, di conoscere il proprio passato, di confrontarsi con ciò che è accaduto in modo critico soprattutto, e diverse manifestazioni si sono anche svolte lì negli ultimi mesi, per fortuna, perché all'inizio sembrava una situazione un po' statica, però adesso ultimamente sono state organizzate diversi eventi, perché un museo, qualcosa di musealizzato, tende spesso a diventare statico, polveroso, forse anche vitale in un certo senso. Per questo è importante che ci sia movimento, che questo sia inserito in un contesto urbano vivo, che possa essere vissuto dalla popolazione come parte integrante della propria vita. È stato organizzato un concerto, è stato organizzato questo ciclo di incontri sulla vita di Cesare Battisti, è stata realizzata anche una giornata di formazione per insegnanti assieme a Mirko Freiner, che vedo lì davanti, soprattutto davanti a me, anche suscitato molto entusiasmo, e il percorso ha addirittura vinto il premio, cioè gli è stato consegnato un elogio da parte di un ente molto importante a livello europeo. E questo sono tutte delle cose veramente positive, cose che probabilmente ancora 10 anni fa nessuno avrebbe usato immaginare, pochi avrebbero usato immaginare. E trovo, ogni volta che leggo queste cose sono contenta, perché vedo che c'è un movimento, che qualcosa sta cambiando, che la popolazione della cittadinanza è anche disposta a dare questa proverbiale seconda chance a questo, posto, per dimostrare che anche i movimenti possono, sanno cambiare, possono cambiare nel corso degli anni. Una cosa fondamentale che vorrei però ancora aggiungere è che sicuramente con tutto ciò io spero non ci sia mai un'omologazione delle diverse narrazioni, perché la pace o una convivenza pacifica non si ottiene omologando i pensieri, ma si fa quando uno capisce che dobbiamo ascoltare, dobbiamo accettare e rispettare le opinioni di qualcun altro, cioè mai sarebbe triste se tutti fossimo uguali, onestamente. E questo mio augurio è veramente un momento per tutte le direzioni. Questo frutto che ho scattato per caso, una volta poi ho visto che è veramente sintomatica per quello che ho scritto, poi alla fine veramente nelle conclusioni. Conclusioni che fra presto terminano con una citazione di You Can't Always Get What You Want e Rolling Stones. Perché a un certo punto ho pensato che questo che ho imparato adesso studiando il monumento lo posso applicare a molte altre situazioni della mia vita, perché ho visto che probabilmente non potrò sempre avere ciò che desidero, ma forse il destino mi regala qualcosa di cui invece ho bisogno per la mia crescita personale, o come nel caso del monumento, per una crescita civile di tutti noi, per diventare proprio dei cittadini che vivono in una democrazia che anche merita, insomma, di essere chiamata tale. Sì. Ha saputo, diciamo, in questo letta unire le vicende del monumento, i momenti della sua nascita, il suo percorso e la sua attuale storizzazione, le attuali prassi anche didattiche nel contesto della storia del Südtirol Adige. Praticamente ha raccontato le vicende del monumento e allo stesso tempo anche offerto un panorama sulla storia della nostra terra negli ultimi 100 anni. Non era poco, lo ha fatto con una leggerezza straordinaria. Si vede anche che ha proprio questo video didattico, sa come presentare un monumento, è proprio una grande dote di questa giovane ricercatrice. Ecco, abbiamo ascoltato, diciamo, questo percorso. Penso che pensiamo che sia anche il momento di aprire al pubblico, di aprire a voi per sentire se ci sono da parte vostra dei commenti, se ci sono dei suggerimenti, se ci sono, diciamo, anche delle questioni. Proprio un momento anche buono, perché da 3 anni il monumento si è aperto in tutte le direzioni, se vogliamo dire così, anche se io direi in tutte le direzioni, ma in molte direzioni, e vediamo se avete domande, se avete commenti. Prego, gli ultimi saranno i primi, prego. Sì, magari nei suoi percorsi di altri qualcuno che le ha chiesto oppure che ha pensato che cosa è fisicamente questo monumento? Nel senso, come hai detto, cioè l'altro di Dio, altra cosa. Diciamo che ho notato molto molto stupore quando io spesso dicevo ditemi un po' cosa ne pensate voi di questo, è un mucchio di sassi alla fine, dipende da come lo vediamo. Ho visto molto stupore quando dicevo così, anche qualcuno che si è arrabbiato perché ha detto ma no, non è un mucchio di sassi, non è semplicemente un monumento importato. C'è difficoltà nel vedere i singoli aspetti. Sì. Se uno osserva bene, lì si vedeva molto poco, veramente la forma. Sopra c'erano quasi il bianco rosso e verde. Giusto? Sì. Poi uno guarda la forma di quel monumento lì, che è tratto da pugno, due grandi pezzi, attraverso, vantaggio. Frequento, diciamo così, il monumento La Vittoria da quando avevo che Cesare Battisti fosse un salornista è smentito dai suoi scritti. Io le posso citare a memoria gli scritti di Cesare Battisti in cui rivendica il confine al Brennero. Per esempio, una lettera a Ettore Tolomei in cui dice: Brentani e Lacher mi hanno parlato del salornismo. Stia tranquillo, non sono affatto salornista. Ha parlato del Duce a cavallo a Ponte Gardena, bisognerebbe sapere che non era Mussolini su quel cavallo, ma il fratello dello scultore, che si chiamava Gori, per essere precisi, e soprattutto che quella statua non faceva saluto romano, altra cosa che purtroppo si sente dire continuamente. Lei ha anche rievocato alcuni momenti particolari della vita del monumento, alcuni anche con le fotografie, in un modo completamente, a mio avviso, distorto. Per esempio, dopo l'8 settembre, non è un caso che venga distrutta l'erma di Cesare Battisti e vengano invece salvati i fasci sulle colonne. Su questo bisognerebbe pure dire qualcosa, perché l'atteggiamento di chi compì quell'atto ha un significato molto preciso: contrastare l'italianità, contrastare il simbolo di questa italianità della città di Bolzano, quantomeno per poter il confine a breve. Lei ha ricordato anche il 4 novembre del 49, ha omesso di dire, per esempio, chi fu l'oratore ufficiale di quella cerimonia. Non so se lei lo sappia, si chiamava Tito Zaniguni ed era uno che si era fatto quasi 20 anni di galera, perché fu liberato credo dopo il 25 luglio del 43, per aver attentato alla vita di Mussolini. Era anche una medaglia d'oro della prima guerra mondiale. Era un socialista, non vorrei sbagliare se era socialista o del Partito d'Azione, comunque insomma era un vero oppositore di Mussolini, tanto che era quello che doveva impugnare il fucile che l'avrebbe ucciso nel momento in cui si fosse affacciato sul balcone, e invece il complotto fu scoperto prima e lui fu arrestato e passò per un bel po' di tempo in galera. Però fu chiamato Tito Zanibò, un fiero antifascista. E questo anche ha un significato, cioè la defascistizzazione, se la vogliamo chiamare questa parolaccia, del monumento, è avvenuta molto prima degli anni 2010 o anche solo degli anni 70, quando si è cessato di fare cerimonie ufficiali al monumento. In realtà l'ultima cerimonia ufficiale, quantomeno militare, è venuta per parecchi anni dopo, mi pare nel 93, vado a memoria, sembra che Ciadò, il comandante del corpo d'armata, con una compagnia di scorta, e l'ultima in assoluto mi pare che risalga addirittura al 2008, quando per i 90 anni dall'anniversario della vittoria fu deposta ancora una corona. Però ecco, comunque lei ha saltato un'altra, che ci stava bene come fotografia in mezzo a quelle che ha mostrato, un'altra cerimonia del 4 novembre, e cioè quella del 4 novembre del 1953. In questa foto, che è stata ripubblicata tante volte, o almeno diverse volte, anche sui quotidiani locali, si vede sulla sinistra un Silvius Magnago dalla faccia un po' scura. Poi in un'intervista disse: sì, ho dovuto andarci, ero vicepresidente del Consiglio regionale, Odorizzi era impegnato da un'altra parte, di malavoglia, ma ci sono andato. E tutti puntano l'occhio su quella figura lì, Silvio Spagnago, al momento della vittoria. Siamo 4 novembre del 53. Ma sulla destra, la persona che secondo me, no, dal punto di vista personale, no, non è la più importante, ma per la foto, per la cerimonia è la più importante, è un distinto signore che sta chiacchierando amabilmente con un ufficiale italiano inglese. Questo distinto signore era l'allora presidente dell'associazione Reduci Kaiser Jäger. Ora siamo nel 53, la guerra è finita da un po', il fascismo ancora di più. Come mai? Dico, ci si ritrova a un momento fra rappresentanti, fra soggetti che hanno anche combattuto, ascoltato, gli uni contro gli altri, e nessuno dice niente, nel senso che il giorno dopo questo illustre presidente di questa associazione di reduci dell'altra parte, diciamo così, non è stato destituito, non ha dovuto dare le dimissioni, nessuno l'ha aspettato sotto casa per dare un fracco di legnate, quindi ha fatto qualche cosa, io, che era accettato, che non era ritrovato. Io questo voglio dire, i conti col monumento si sono fatti già tanti e tanti anni fa. È stata una, come dire, reinvenzione questa del contrasto sul monumento come segno di opposizione tra gruppi etnici. Una riscoperta, dopo un certo tempo non si sa più che cosa attaccarsi, quindi prendiamoci la monumento. Ma i conti, la storia, quanto meno la storia di Bolzano, con lui, ne aveva fatti già 4 anni dopo la fine della guerra. Solo se posso, 2 cose per le persone che hanno parlato prima. È giusto che il monumento venga considerato un tempio, tant'è che c'è un altare e ci si dicevano le messe. Per quello che diceva lei prima, la scritta sul frontotino, non so se lei l'abbia mai letta e interpretata nel modo corretto, se posso, le dico qual è la mia opinione, cioè quella frase è ciò che dice il legionario romano al frante del Milano, e gli dice: qui siete i confini della patria. Da qui noi, 2000 anni fa, non l'infante di oggi, non il combattente del 18 che nulla aveva da insegnare agli abitanti di questa zona, ma noi antichi romani, qui, a suo tempo, abbiamo ingentilito Ceteros, quelli che stavano dall'altra parte del mondo, con la lingua, con le leggi, con le armi. Quindi non è un'offesa diretta, rivolta agli abitanti di una lingua tedesca che stavano qui nel 1918. Così è stata interpretata, ma in mala parte, diciamo, perché la realtà della frase è questa qui. Sì, però posso dire, solo dico, però la sensibilità di noi italiani, di quel consiglio italiano, nel momento in cui può essere va interpretato in un modo o nell'altro, però di sensibilità tecnica reale, dico, se questa frase, io quello che mi sono chiesto, se questa frase può suscitare, no, sensibilità di un altro per evitare il tutto, no, dico, posso anche fare a me, anzi, tanto è vero che, per esempio, io mi ricordo ci fu una proposta, non so di chi, pace, no, piazza della pace, come mai allora mi chiedo se, no, si voleva da una parte e dall'altra la collaborazione, la sensibilità. Come mai c'è stata tutta quell'opposizione proprio da parte degli italiani sul nome pace? Perché più bello della pace, mi sono chiesto questo, da italiano, dico, vabbè, ma cosa hanno chiesto? Non so chi la base del proposto, mi sembra i Verdi o chi adesso non c'entra, quel famoso referente, come si dice, però più bella cosa, troviamo una convivenza, la pace, piazza della pace. Ecco, allora è chiuso. A parte la frase, cioè, che dici, non sono io. Voglio superare la cosa che abbiamo distanza. Per il discorso di piazza della pace, forse la giustificazione al fatto che quel referendum fosse stato contrario è stato questo: è stato sentito dalla popolazione italiana come una decisione dall'alto. Se adesso fosse riproposta, forse non creerebbe questa opposizione, ma a quei tempi si è sentita come una imposizione, dice, la pace la devi proprio sentire nella quotidianità, la base doveva essere o più informata, adesso forse potrebbe essere la proposta accolta. Allora almeno io credo di utilizzare questa lettura. Per quanto riguarda la scritta, se uno legge la rivista è scritta da Gino Pucchetti in occasione dell'inaugurazione del monumento, a un certo momento c'era scritto invece della parola Cetros, Barbaros, ma dice, poi sottocorrege, ma noi siamo dire, civili e mettiamo Cetros. Tanto per chiarire queste cose. Scusi, ma non è vero? Non è vero? No, non è vero. Allora, c'è scritto nella rivista del 1928, non è che scrive io. Sul monumento non c'è mai stato scritto Barbaros. Sul monumento non, la scritta iniziale che era stata proposta. risposta, poi è stata sostituita con questa yoga centrale. Sì, ma... possiamo fare qualche commento ai commenti? Sarebbe anche opportuno. Noi ringraziamo lei per le precisazioni che ha portato, diciamo, all'esposizione di Adina. Penso che, diciamo, quanto ha messo sul tavolo è sicuramente importante. Per esempio la questione che riguarda Cesare Battisti, si può dire che certamente che Battisti era uscito dalla compagine austriaca nel 14-15 sicuramente non per far finire il fronte, diciamo, i futuri confini a Savona, ma si può anche dire dall'altra parte che Battisti era per diciamo, molto tempo savonista, almeno fino al 12-13 sicuramente, almeno apertamente, se leggiamo il carteggio che è stato pubblicato anche da Vincenzo Calini, diciamo lì, vediamo che per un periodo piuttosto lungo Battisti sicuramente può essere definito salonista. Che abbia poi cambiato atteggiamento, questo va sicuramente dato atto, lì anche completamente ragione. La sua diciamo, il suo chiarimento sulla figura del cosiddetto duce di Monte Gardena, mi sembra interessante, questo non lo sapevo, lei lo può confermare? Ok, interessante. Mi dica che cosa vuole per conferma, cioè, perché no. Chiaramente non lo posso riportare alla statua che ormai è sparsa a pezzi di quelli là, visto che la testa del cavallo... Certo, ma esistono delle fotografie, sarebbe importante perché viene costantemente tramandato che questa figura sia quella del duce, ovviamente del periodo fascista, e tanto anche ovviamente commentato che va in quella direzione, ma se quanto dice lei è da confermare, allora sicuramente va corretta questa posizione, lì non discutiamo. Per quanto riguarda soltanto una terza osservazione alla sua puntuale ricostruzione del dopoguerra del 1953, soprattutto della figura di Magnago, che da una parte sta un po' poco contento, dall'altra parte c'è questa presenza del che fa parte ovviamente è anche un periodo nel quale si cercava anche, diciamo, una specie di pacificazione, di far dimenticare anche gli effetti della guerra, di unire, diciamo, anche il rapporto tra Austria e Italia in questa fase. Ovviamente siamo nella fase dopo il De Gasperi e Hugo, siamo nella fase anche del primo statuto d'autonomia, la crisi autonomistica arriverà soltanto con forza dal 55 in poi, insomma c'è una volontà anche di agire congiuntamente, e soprattutto il monumento in questa fase non ha sicuramente questa valenza storica, questo carico di significato nella coscienza collettiva che ha avuto nei decenni seguenti. Penso che il monumento sia stato anche caricato di significato, soprattutto dagli anni 60-70 e poi, come Adina ha dimostrato con molta chiarezza, mentre nel dopoguerra c'erano altre preoccupazioni, mamma mia, non c'era, diciamo, questa sensibilità per i simboli, a mio avviso. Pertanto, diciamo, questa sua affermazione, diciamo, non è, a mio avviso, idonea, diciamo, dire che c'era una specie di in quella fase una specie di depotenziamento del monumento. Il monumento non era, diciamo, al centro dell'attenzione, è venuto al centro dell'attenzione soltanto dopo. Dunque utili le sue presentazioni, sicuramente importanti, che dimostrano anche ovviamente una conoscenza fondamentale, però io vedo il discorso che la Guarnieri sta, diciamo, ha presentato, non viene sicuramente, io avviso intaccato da queste sue osservazioni, sono sicuramente utili, ma vediamo se la mia stessa può dare il suo momento, anche diciamo agli altri che sono intervenuti, ringraziamo anche delle vostre, dei vostri commenti. Bene, va bene. Cerco di essere breve, vorrei dire che innanzitutto molte cose questa sera non le ho dette, perché io onestamente potrei parlare del Steelcam 7-8 ore su questo argomento, perché me ne sto occupando da parecchi anni. Sicuramente dell'essere salonista di Cesare Battisti ho letto alcune cose riguardo, non ne ho parlato questa sera perché non penso che sia inerente al discorso. Sicuramente non era 100% salonista, però anche lì si può discutere, la filologia sta ancora analizzando, sta ancora cercando di interpretare gli scritti di una persona che ha scritto anche sicuramente in una circostanza, in un momento storico completamente diverso dal nostro. Si tratta di entrare in guerra, si tratta della guerra, si tratta di morire per la propria patria, e sicuramente va anche calcolato che qualcuno può reagire molto meno emotivo e istintivo scrivendo delle cose. E ho deciso di tralasciare alcune cose. Vorrei solamente dire che quando per esempio parlo della scritta offensiva o parlo della scelta del 4 novembre del 49 per inaugurare il monumento restaurato, io questo l'ho fatto non come storica, ma dal punto di vista dell'immaginario, dell'identità collettiva, di come è stato vissuto dai gruppi linguistici e non di come effettivamente si è verificato. Perché lo ammetto, sinceramente non sono una storica, ho fatto un altro percorso di studi, per questo non pretendo che la storia raccontata sia necessariamente la verità storica accaduta, ma io ho cercato di raccontarla così come è stata vissuta e interpretata dai gruppi linguistici in base al momento, cioè in relazione al mondo. Per questo io penso sia corretto affermare che il 4 novembre del 99, con quel discorso lì, per il sottolineo di lingua tedesca, è stato un affronto. Se poi la persona che l'ha pronunciato è stata una persona forse socialista, comunque una persona che non era fascista, penso che alle persone allora poco importava. Erano le parole che sicuramente hanno ferito molti. Questo. Se ci sono ancora queste contrapposizioni, significa che il momento ancora è poco noto, non è stato ricordato in maniera più ampia. C'è ancora molto lavoro da fare. Il monumento è stato storicizzato, ma con questo non è stato parcheggiato. Partiamo adesso. C'è ancora molto da fare sicuramente, e come ho detto prima è bello che non siamo tutti uguali e che non lo vediamo tutti allo stesso modo. Non è questo, è che quando si parla di continenza ci riempiamo la bocca senza sapere che la prima volta che è stata usata la parola pacifica continenza l'ha usata Tolomei, naturalmente dal suo punto di vista. Poi nel 61 il famoso convegno del pubblico di Bolzano è stato importantissimo, nessuno ne parla mai. Anche lì è venuto fuori che bisogna essere tutti conviventi pacifici. Se io e lei fossimo marito e moglie, potremmo abitare nello stesso appartamento senza mai parlarsi, perché non sentiamo di essere piatti e siamo conviventi pacifici. Io pretendo non di essere conviventi, ma di esistere in questa terra. Perché con la convivenza hai l'indignazione ma l'eliminazione si può comunicare, basta non parlarsi mai. Io voglio coesistere, esisto e voglio coesistere, non comunicare. E chiudo perché ha già risolvato la storia. Si può dire che la parte del mondo sul tirolese ha cominciato a prendere atto di questo ripensamento che ha voluto? Cioè l'interesse solo nel mondo italiano a ripensare le cose come sta avvenendo, o nel mondo tedesco della Germania, che conosco di più un pochino, ho molte volte l'occasione di far riflettere su queste cose, ma nel mondo sul tirolese locale sta succedendo qualcosa che va nella direzione che si sta aspettando? Nella sua esperienza di contatto che vengono a visitare. C'è di tutto, devo dire, ci sono molti giovani volenterosi di capire, di comprendere, anche perché penso che siamo arrivati a un punto dove c'è una certa distanza, anche che poi c'è da dire che la nostra società sta diventando sempre più pluriculturale e questo aiuta molto. Perché non c'è solamente noi e l'altro, ma siamo forse al massimo noi e gli altri, o gli altri e noi, noi insieme. Non è più così, c'è più questa dicotomia delle culture nella donna adesso. Sì, se posso, ovviamente un po'. Ma diciamo, il signore in fondo se n'è andato purtroppo, perché ha espresso, diciamo, una visione piuttosto negativa sulla convivenza. Ha descritto, diciamo, marito e moglie nella stanza da letto che non si parlano, che sono divisi da un tubo di gomma o di vetro. Lì non si può parlare di convivenza, ma di coabitazione, coabitazione. Penso che in Alto Adige, sul Tirolo, abbiamo queste due forme, anche più forme. Penso che da una parte ci sia ovviamente una non comunicazione tra i gruppi linguistici. Vediamo che c'è una indifferenza notevole verso il gruppo italiano da parte dei sudtirolesi, e anche dall'altra parte c'è la volontà di vivere a sé. Questo è abbastanza chiaro come dato di fatto, e lo dimostrano anche in un certo senso, se posso essere molto attuale, i risultati dell'attuale studio con l'IPSI, che è uscito di recente, avete letto sul giornale, diciamo, il commento sulle conoscenze linguistiche dei ragazzi che frequentano le nostre medie superiori, eccetera, pp. Però io vedo una dialettica, da una parte c'è questa chiusura che persiste, c'è un senso di diffidenza, ma dall'altra parte vediamo anche che c'è una convivenza che è molto più vivace, molto più vitale rispetto a 40-50 anni fa. Io sono per fortuna abbastanza anziano per dire che ho vissuto ancora da ragazzo dagli anni 60 in poi, quando andavo a scuola all'elementare di Bressanone, allora non si parlava con gli italiani, con i Valsche non se ne parlava, c'era, diciamo, una chiusura reciproca incredibile dall'altra parte, ovviamente. E penso che rispetto a quel periodo abbiamo fatto dei passi non da gigante, ma notevoli di tutto rispetto. È un percorso che è lungo, è un percorso che è difficile, ma è un percorso che dobbiamo affrontare, e vediamo ovviamente molti sintomi anche di rassegnazione. Vediamo anche un gruppo in lingua italiana che spesso è anche, si sente debole, messo anche, diciamo, in una posizione di debolezza dal gruppo più forte, soprattutto dalla maggioranza politica. Ma dall'altra parte penso che quello che è stato raggiunto non era poco, migliorabile sotto molti aspetti, ma sicuramente notevole. A mio avviso Adina stessa è un esempio di come si può arrivare a un certo livello di maturazione di conoscenza. Ho visto poche persone come Adina che sia in grado di esprimere al contempo la competenza linguistica in italiano e tedesco in modo uguale, che abbia una maturità e consapevolezza che si può andare in una direzione positiva. Penso dunque che ci sono molti passi da fare, spesso si ha anche il senso di dover rassegnare, spesso non ci si sente compresi, spesso si vede anche che siamo inseriti come gruppi linguistici anche in un contesto globale che sta cambiando rapidamente, dove ci sono anche ben altri problemi di migrazione, di culture, ma comunque quello che è stato raggiunto va sicuramente valorizzato, va rafforzato, e penso che questo sia anche un compito per il futuro. Dunque, volevo solo, mi ha fatto venire in mente perché nell'81 quando venni a Bolzano. All'81? Sì, una bella frase. L'autonomia, no? Volevo solo dire, ecco, noi italiani, perché nell'81 mi sono andato a studiare perché era lo statuto, perché eccetera, eccetera. Okay. Nell'81 io ricordo benissimo che a parte qualcuno, qualche italiano, no? Nessuno di noi difendeva lo statuto, prima l'analisi. Adesso quello statuto ha portato del bene a tutti, sia italiani, tedeschi, italiani, perché io per esempio ho lasciato il mio paese perché sono andato a lavorare e sono contento di vivere, ho famiglia, figli in Alto Adige, quindi grazie a questo statuto io dal sud li ho avvantaggiati perché ho trovato lavoro, figlio, parlo tedesco, italiano, quello è. Allora, nel 81 nessuno di noi italiani, o una minima parte, mi ricordo ancora qualche partito parlava di, no? Adesso tutti gli italiani parliamo più o meno, che stiamo meglio delle altre regioni perché lo statuto ci ha dato più case popolari, più lavoro, più a tutti. No, allora anche questo, no? Dico, è la maturità della maturazione da parte del mio gruppo italiano, perché io sono contento di vivere qua perché se uno ha lavoro, la casa, più o meno tutti i problemi. Poi oggi leggevo sul giornale, vabbè, c'è da migliorare il pronto soccorso, la sanità, ma io vado, se vengo ricoverato qua, ho un letto. Se io vengo ricoverato dove sono nato, in corridoio, e mi devo portare una coperta da casa. Allora è facile dire sono italiano, io sono italianissimo. Ci mancherebbe altro, però davanti a certi problemi qua, se vengo ricoverato muoio, magari pure muoio, ma almeno ho una coperta con la danno. Volevo dire semplicemente una cosa riguardo la maturazione dei tempi nei quali viviamo in riferimento al momento della vita. Io credo che non sia stato fatto abbastanza, anzi si è fatto molto, sarebbe molto ancora si farà. Il fatto che il monumento che divide ancora popolazione di Italia, in Italia e tedesca, nient'altro dimostra che chi ha pensato quella macchina propagandistica l'ha pensata veramente bene, per dei motivi per cui divide questo monumento sono gli stessi da sempre, e il tentativo di storicizzarlo, di dargli un contesto, di definire, di fare conoscere i motivi che ci stanno dietro, come è stato progettato, quali sono i messaggi che vuole trasmettere, il modo migliore anzi per depotenziare in questo senso, non abbattendolo ma facendo conoscere come è stato fatto, cosa c'è dietro. Finché le persone non guarderanno da questa prospettiva, continuerà a svolgere la funzione per cui è stato progettato, ovvero imporre e dividere e dividere. Basta. Magari possiamo pian pianino chiudere, ma eventualmente possiamo chiedere anche a Hannes Obermeier se ha voglia di dare il suo commento. No, che ha... solo per fare complimenti a Adina, cioè io ho la fortuna che ho già potuto leggere il lavoro tempo fa perché generosamente ci ha consegnato una copia, ed è davvero un bel lavoro, un bel libro che vi consiglio tutti di leggere, speriamo che venga pubblicato. E complimenti per tutto il lavoro che svolge, che ha svolto, che svolgerà. Speriamo. l'orario, no, dicevo prima, voi uscite, vorrei che magari potete fare una segnalazione al comune che l'orario, perché io ripeto, non l'ho ancora, ho avuto la fortuna di visitare, quando andavo lì c'è la targhetta e sempre, cioè se si riuscisse a fare un buon orario continuato, almeno il sabato, perché uno guarda tempo, se uno lavora durante la settimana non riesce ad andarci, no? Allora ci vorrebbe andare sabato e domenica, sempre perché si è chiuso. Può fare tanto il comune, si vuole proprio un po' di foto in questa cultura, come diceva il signore, che per non lo conosce, eccetera. Ma il cittadino non ha la possibilità di neanche, io personalmente ripeto, mi interessa moltissimo entrarci la porta dentro, ma ogni volta che sono andato c'è l'etichetta e arrivo sempre per le 5, perché uno quando è che lavora fino alle 5, va alle 5 lì è chiuso, qua ci deve andare, sabato e domenica non si può andare. E alle rimandare non ci vado più, tranne c'è qualche insegnante a darci. Quindi magari se lei o il dottor Reis riesce a farla a me al comune, dice vabbè la potrei fare anch'io. No, magari, questo poi potrebbe anche rettificare la Dina, no? Cioè è sia aperto sabato che domenica mattina e pomeriggio e poi il giovedì c'è la serata lunga fino alle 9 di sera. Sì, c'è l'orario estivo e quello invernale, cioè scatta col 1° aprile, sempre il orario. Ogni sabato, quando va al mercato del sabato, prima di prendere le patatine, e se vuole andarci dopo il sesso di sera, con calma, la sera. Quella giovedì, però non c'è il mercato del sabato. Giovedì, no, sabato non è l'interesse. Giovedì fino alle 9 di sera. Sì, ma dal vecchio. Giovedì. Bravo. Bene, ringraziamo tutti, buona serata e a presto, arrivederci.